Letture di Radio 24. È stato l'inventore di un servizio pubblico televisivo che parla a tutti e che di tutti ha coscienza. Così Renzo Arbore ricorda Biagio Agnes, direttore generale della RAI, dal 1982 al 1990. Biagio Agnes era un mio grande amico. Per me questo è un momento molto triste. Oggi voglio ricordare che lui, insieme a Ettore Bernabei, è stato l'inventore del servizio pubblico radiotelevisivo, che ne ha fissato e interpretato la reale missione, quella di far crescere il paese, e non certo di diseducarlo, come troppo spesso ormai viene fatto in nome dell'Auditel. Un servizio pubblico rispettoso del cittadino, che non la pensa come te, che parli a tutti, e di tutti abbia coscienza. Avevo incontrato Biagio Agnes appena una settimana fa, e ci eravamo abbracciati. Ero fiero di questo rapporto, che ha segnato molti anni della mia vita. Allora, quando ci conoscemmo, il direttore generale della RAI era un uomo invisibile di cui non si parlava. Fu lui a rompere il ghiaccio quando nel 1984 condusse il programma in TV sui 60 anni della radio dal titolo «Cari amici vicini e lontani». Gli piacque talmente tanto che venne di persona negli studi facendoci una sorpresa durante le prove. Fu accolto dall'applauso di tutte le persone che lì lavoravano. Di lì a poco ricordo che in un mio articolo sull'Espresso dal titolo «Ingrata radio, non avrai le mie ossa», criticai la gestione dei tre direttori radiofonici dell'epoca, che a mio avviso stavano distruggendo la radio pubblica. Fui convocato dal presidente Sergio Zavoli, che con estremo garbo mi disse che formalmente doveva rimproverarmi un po'. Ma mentre si svolgeva il colloquio, ero emozionato. Quando mai ero stato convocato ufficialmente dal presidente di Viale Mazzini? Entrò Agnes nella stanza del presidente e con la simpatia avellinese che lo ha sempre caratterizzato, disse a Zavoli indicandomi «Chillo o Quaglione, ave ragione». La sintesi più efficace di attaccamento all'azienda, competenza e simpatia. Finì che ci mangiammo un panino insieme e feci pace anche con i direttori da me criticati. Addirittura uno dei tre mi chiese l'autografo per suo figlio. Ma altri momenti hanno segnato questo rapporto. Il 1985 era stato l'anno del grande successo di Quelli della Notte, ma nel 1986 la RAI dovette affrontare il grande esodo verso la Fininvest di tre colonne come Raffaella Carrà, Pippo Baudo ed Enrica Bonaccorti. Mi disse «Vedi tu come bisogna fare». E io mi inventai Indietro tutta. Era un rischio, una specie di salto mortale, ma ebbe ancor più successo. Da allora la nostra amicizia si consolidò. Ed è durata fino ad oggi. Eravamo d'accordo sui valori di fondo per una politica sana. Del resto le nostre radici erano comuni, meridionali e cattoliche, anche se nella mia vita, rispetto alla sua, ho fatto alcune birichinate. Tra le intuizioni che hanno lasciato un segno forte, va ricordato che Biagio ha inventato Celentano Conduttore, affidandogli Fantastico nel 1987. Dopo un avvio incerto, si rivelò un successo clamoroso. A questo va aggiunto che non era politicamente invasivo e del resto fu lui a creare Rai 3 per dare voce alla sinistra rappresentata dal PCI. Al di là di questi ricordi lieti, voglio aggiungere che Biagio Agnes è stato un esempio, che la sua opera rappresenta in qualche modo la ragione sociale del servizio pubblico, che è il rispetto del pubblico. Io sono nato con Mamma Rai, radio e TV, e vorrei che tutti i cittadini sapessero in ogni momento che la RAI è al loro servizio, di tutti i cittadini. Questa era la filosofia di Biagio, il suo codice di comportamento, a cui mi auguro attinga la RAI moderna, quella che deve affrontare con successo le sfide del futuro. Avete ascoltato l'articolo di Renzo Arbore, Il paese prima dell'Auditel, dal Sole 24 Ore del 31 maggio. Quante volte ci dimentichiamo di un impegno preso da tempo o abbiamo vuoti di memoria che ci lasciano interdetti davanti al nostro interlocutore? Nessuno può dire di non aver mai avuto un lapsus. Eppure, questi impegni dimenticati possono contribuire alla conoscenza di noi stessi. Congratulazioni! esclamò nella costernazione degli astanti un'amica al funerale di un signore la cui dipartita rendeva molti liberi e ricchi. Mordersi le labbra a buoi scappati è inutile, ormai è fatta. Tanto più che il concetto di lapsus è così entrato a far parte del parlar comune che pochi ci cascano. Voce dal sen fuggita dice il vero. E fuggito, caduto, scivolato significa lapsus nel latino da cui è stato preso. Lapsus è una parola che scivola fra le maglie del controllo razionale ed entra, di solito sgradita, in società. È un vuoto di memoria imprevisto che ti lascia a bocca aperta con l'assente sulla punta della lingua o che abbandona chi ti aspettava ad attendere invano visto che hai scordato l'appuntamento. È alterare o sostituire una parola con un'altra, parlando o scrivendo. È ricordare un fatto mai avvenuto. È un gesto che ci sfugge, diverso da come dovrebbe. Ben elenca i lapsus Sigmund Freud nella sua Psicopatologia della vita quotidiana, dove con meticolosità elenca e analizza una serie di evasioni dal controllo razionale di cui intuisce e spiega con cura il significato e il meccanismo di formazione. È affascinante aprire la finestra del mistero, sollecitati da episodi anche minimi e quotidiani, da esperienze comuni a tutti. La mia sola intenzione è raccogliere le cose della vita quotidiana e usarle scientificamente, scrive Freud. E non capisco perché mai la saggezza, che è il precipitato della comune esperienza di vita, non debba essere accolta fra le conquiste della scienza. Del ricordare e dimenticare, la scienza sa assai poco, e l'indagine sul dimenticare è quasi ancor più interessante di quella sul ricordare. Abituati a comandare la nostra banca dati, la ribellione del lapsus è l'evasione di un prigioniero, di un noi stessi che riesce a sfuggire alle catene razionali e comunica a tutti qualcosa. Vale la pena di posare l'attenzione sui lapsus, sui nostri per meglio conoscerci, su quelli degli altri per meglio conoscerli. Ad esempio, quante volte dimentichiamo di fare una cosa che abbiamo ben segnato su agende cartacee e mentali, un impegno che abbiamo accettato per convenienza o educazione o vigliaccheria? Ci scusiamo, adducendo motivi superficiali che almeno in apparenza vengono creduti: stanchezza, iperlavoro, sbadataggine. Invece atti mancati sottendono un motivo, sono la risultante di un conflitto che non ci permette di dire no subito, ma ce lo fa dire poi in modo inevitabile coi fatti. Se ci abituiamo a chiederci perché non abbiamo fatto qualcosa, il che richiede indulgenza e attenzione amorosa verso noi stessi, possiamo, dopo la risposta, passare al secondo tempo. Trovare il modo di dire di no, o in casi disperati, riuscire a ricordare. Il conflitto smascherato ha minor potenza di quello rannicchiato nelle grotte dell'inconscio. Dobbiamo renderci conto che poche azioni sono del tutto casuali. Se si rompono spesso cose di valore, forse si sente un'ostilità verso una ricchezza negata. Se un bimbo cade troppe volte, forse sta reclamando affetto e dichiarando insicurezza. Se all'esame si dimentica improvvisamente tutto, forse si sta affermando: non l'ho preparato bene. Dicendo «cercheremo di aumentare la disoccupazione e credo che ce la faremo», Reagan lanciò il messaggio più incisivo di tutto il discorso. Buffi o tragici, i lapsus hanno la stessa origine psichica. Talora sono facili da capire. Ad esempio, la segretaria che scrive «restituire i moduli complicati» invece che compilati sta esortando a farli più semplici. La signora che alla domanda «in quale arma presta servizio suo figlio?» risponde «42esimo mortali» esprime la sua profonda angoscia. Lapsus manifestati con i gesti sono così comuni da essere nell'inconscio collettivo e trasformarsi in proverbi e superstizioni, come versare il sale o l'olio. Ma alcuni possono sognare per sempre la vita. E come Freud ha esortato per primo a fare, chiarire i nostri conflitti profondi non risolti potrebbe anche evitare tragedie. Quanti incidenti appaiono casuali e sono invece inconsciamente intenzionali? Quante volte un colpo sfuggito dal fucile viene dalle ombre dell'animo del cacciatore? E quante cose belle e utili potremmo realizzare se svanissero gli ostacoli che poniamo ad alcune nostre azioni, rendendo vani tanti sforzi? Ma per superare il motivo ignoto occorre qualcosa d'altro, oltre al proposito contrario cosciente. Un lavoro psichico che riveli quell'ignoto alla coscienza. Scrive Freud, attualissimo in Psicopatologia della vita quotidiana, lo scritto forse più vicino a ognuno di noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Capire se stessi con gli impegni dimenticati di Federica Mormando dal Corriere della Sera di lunedì 16 maggio.